Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. Vediamo se siamo più fortunate. Buonasera, abbiamo cominciato meravigliosamente la prima trasmissione del nuovo anno, non ci smentiamo mai. Allora, bentornate a tutte quante, bentornate anche noi, avremmo preferito cominciare meglio, ma tant'è. Allora, ben comincia nella metà dell'opera, esatto, come tu pensai. Brava, dunque questa è la nostra 231esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Stasera qui in studio siamo Caterina, cioè sarei io che vi sto parlando, e con me ci sono anche Rosina, che avete poc'anzi ascoltato, e Lucilla, che adesso dirà qualcosa, almeno buonasera. Buonasera. Eccola, è lei. Allora, quest'oggi la nostra scaletta prevede una forma di saluto ricordo di Mary Daly, di cui si è già tanto parlato, di cui si è già tanto scritto ed anche molto discusso. Anche noi del CLR volevamo ricordarla e lo faremo a modo nostro. Siamo andate dietro le sensazioni che la lettura di Mary Daly ci ha procurato e le abbiamo trasformate in alcune associazioni di idee. Queste, a loro volta, hanno condotto la nostra memoria verso il ricordo di un altro libro a noi altrettanto caro. Proveremo a rendervi partecipe di questi nostri pensieri che volentieri condividiamo con voi. Daremo inoltre una serie di comunicazioni su iniziative alle quali vi inviteremo a partecipare. Continuate quindi ad ascoltarci e scoprirete di cosa stiamo parlando. Chiaramente potete sempre intervenire a questa trasmissione telefonando al numero di Radio Onda Rossa, che è 06 49 17 50. Ma questo non è l'unico modo per mettersi in contatto con noi, perché potete scriverci indirizzando la vostra email a contatti@clrbp.it. Oppure potete anche scriverci a CLR presso Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B00165 Roma. Bene, visti gli inconvenienti tecnici e tutte queste chiacchiere iniziali, io direi di ascoltare subito un brano musicale prima del nostro contributo a Mary Daly. La voce che ascolterete, a patto che non ci siano altri disturbi tecnici, è quella di Tracy Chapman, dal titolo la canzone Talking About a Revolution. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. E allora, dopo questa... Non mi sente. Questa hit nuovissima, recentissima di Tracy Chapman, ma si sa che noi siamo un po' antiche, un po' babbione. Giurassiche, direi. Giurassiche, però come si dice sempre, meglio vetero che etero. Appunto, come dicevamo nella introduzione, stasera vi parleremo un po' di Mary Daly, vogliamo ricordarla insieme a voi. Chi era Mary Daly? Mary Daly è stata una filosofa, una teologa e una femminista radicale ed è morta il 3 gennaio scorso dopo una lunga malattia. Parlare di Mary Daly non è una cosa di poco conto, vista la complessità del suo lavoro, però il messaggio di costruzione del futuro e la speranza sulla quale questo messaggio poggia ci obbligano a ricordarla, così come lei avrebbe voluto. Lei ha lasciato una sorta di testamento spirituale in cui appunto chiedeva che le donne parlassero del suo lavoro nei luoghi in cui appunto le donne vivono, lavorano, parlano e osano sperare in un mondo diverso, in un futuro che riporti in scena, queste sono parole sue, il coraggio oltraggioso delle donne selvagge per trasformare il dolore e la giusta rabbia in speranza creativa. Allora, Mary Daly è nata in una famiglia irlandese molto cattolica ed è stata definita una delle più potenti creatrici di pensiero, linguaggio e visione del movimento femminista degli anni 70. E dopo aver conseguito un primo PhD in religione in America, si laureò in teologia presso l'Università di Friburgo in Svizzera, perché negli Stati Uniti a quel tempo quel corso di studi di teologia era ancora precluso alle donne, quindi lei si trasferì in Svizzera per conseguire appunto questa laurea. Sempre in Svizzera prese anche una terza laurea in filosofia e quando rientrò negli Stati Uniti divenne professore assistente presso il Boston College, che era una università gestita dai gesuiti. Nel 1968 pubblicò un libro molto importante che si chiamava La Chiesa e il Secondo Sesso, che le costò il licenziamento nell'anno successivo. Le proteste studentesche che seguirono al suo licenziamento obbligarono comunque l'amministrazione del college a reintegrarla nel giugno di quello stesso anno. Le sue varie pubblicazioni, Al di là di Dio Padre, Gynecology, Pure Lust, l'autobiografia, Quintessenza e altri ancora, la posero comunque al centro di infinite polemiche nell'ambiente accademico convenzionale, ma lei ha continuato a scrivere, a combattere e a parlare per le donne e con le donne senza lasciarsi intimorire e consegnando a tutte noi una prestigiosa eredità. Allora, ci preme anche dirvi un'altra cosa, che Mary Daly fu invitata nel 1991 alla prima settimana lesbica che si tenne a Bologna e alla quale io posso dire mi onoro di aver partecipato e di averla ascoltata. Vorrei anche aggiungere che è stata invitata a parlare sempre al Buon Pastore 2 o 3 anni fa per la presentazione del suo libro Quintessenza, alla quale anche io mi pregio di aver partecipato. Insomma, è stata una cosa molto importante, molto toccante, averla vista, conosciuta e sentita parlare. Allora, stasera tenteremo un piccolo esperimento, se così si può dire, cioè leggeremo alcuni brani tratti dal libro Quintessenza, cercando di ravvisare alcuni collegamenti con un altro libro che a noi è molto caro, perché lo troviamo importante e bello, e di cui abbiamo peraltro già parlato in una trasmissione, e che in qualche modo, secondo rimanda al pensiero di Mary Daly, cioè rimanda alla visionarietà, alla costruzione, un po' per la costruzione straordinaria di un mondo, di un futuro diversi, dove la vita scorre in sintonia con gli elementi che la ospitano e la circondano. Beh, questo è anche all'interno, per esempio, di Quintessenza. Si tratta di un libro di fantascienza e il titolo è La difesa di Shora, di tu il nome che non lo riesco a dire? Johann Slonczewski, un nome un po' difficile, Slonczewski, una volta detto 2 o 3 volte si impara. Slonczewski, vabbè. Che narra la storia di uno straordinario popolo di sole donne che si autodefinivano le spartienti, che vivono su una luna oceano, in perfetta simbiosi e sintonia con il pianeta, riproducendosi per partenogenesi, che è il massimo, cioè io ho una speranza meglio di questo, un'utopia da realizzare. Non lo so, tu sai che io sono per l'estinzione naturale delle specie, per cui... specie maschile, io sarei per... anche di quella femminile, ecco. In alcuni casi. Allora, quindi si riproducono per patogenesi e che si trovano costrette, loro malgrado, a lottare contro un potente nemico che intende colonizzarle per assoggettarle al controllo del sommo patriarca di Thor. Vi dice qualcosa questa cosa? Solo un pochino. Allora, Allora, Quintessenza invece, il libro della Mary Daly, è un libro molto particolare. Per dirla con Luciana Perkovic, che ha molto studiato l'opera di Mary Daly, si tratta di un saggio che però è anche contemporaneamente un romanzo, ma essenzialmente è una visione che non appartiene al piano ordinario del reale proprio per la sua natura quintessenziale, e cioè quella del quinto elemento, l'etere, lo spirito, e quindi la sostanza di cui sono fatte le anime. Di cosa tratta il libro in poche parole? In un momento imprecisato fra il 1998 e il 2048 c'è stato un enorme cataclisma. La Terra alla fine si è risvegliata, stanca di sopportare questi parassiti fastidiosi che la tormentano, cioè gli esseri umani. Un disastro ecologico, terremoti, tsunami, uno spostamento dell'asse terrestre, anche questo ci ricorda un po' qualcosa, perché sono tutti fenomeni che purtroppo sono accaduti in questi ultimi tempi. Quindi la fisionomia del pianeta è cambiata, molte terre si sono inabissate, un intero continente, che qui si chiama continente perduto e ritrovato, è riemerso. I governi del mondo e le loro economie sono collassati ovunque, e con loro il patriarcato che ne costituiva l'ossatura. Le donne di tutti i continenti, le streghe viaggianti, le veggenti, le donne selvagge, le vecchie sagge, le luminose, come uccelli migratori si sono dirette, guidate da un impulso comune, nel continente perduto e ritrovato, e sono tornate a casa. E ora stanno centrando, equilibrando, mettendo a fuoco, riguadagnando l'integrità originale che sembrava essere stata fatta a pezzi nello stato della diaspora, cioè il nostro oggi. E Mary Daly, quindi, che vive, scrive e pubblica Quintessenza nel 1998, secondo quanto scrive nel libro, viene evocata da una sorella del futuro, Annie, che vuole ripubblicare il libro tanto amato nel cinquantenario della prima edizione. Annie è una studiosa del mondo pre-catastrofe, vuole capire meglio la realtà di quel periodo, come vivevano donne e uomini e che posizioni avevano assunto il femminismo di fine millennio di fronte ai problemi tanto gravi che si andavano accumulando. Un tempo che ora sembra così assurdo e irreale, e vuole saperlo da Mary. Mary, che non sembra sconvolta più di tanto da ciò che le sta capitando, è a sua volta assai curiosa di sapere cosa è successo in questi 50 anni. Il racconto di Annie e le spiegazioni di Mary formeranno così i commenti del 2048 che verranno aggiunti ad ogni capitolo di Quintessenza. Ed ecco qui che cosa scrive Mary Daly nella sua introduzione al libro, che già fa parte ovviamente del libro e che lei appunto titola Introduzione dell'autrice all'edizione originale del 1998. Comincia con lo spiegare il titolo. Il titolo del libro, Quintessenza, realizzare il futuro arcaico, può sembrare un titolo piuttosto minaccioso. Inoltre, il suo rapporto con il sottotitolo, un manifesto femminista elementale radicale, può non essere immediatamente chiaro a chi legge. Diventa tutto comprensibile per le donne astute quando noi iniziamo a capire le disperate condizioni in cui lottiamo per sopravvivere e crescere. Alla fine del XX secolo, alla svolta del millennio, dobbiamo affrontare la ripugnante manipolazione genetica e la probabilità di una definitiva estinzione, non solo del nostro corpo-mente, cioè noi stesse, ma di tutta la natura. E continua. I condizionamenti patriarcali sulla nostra intelligenza iniziano ad allentarsi. Stiamo strappando le bende che ci hanno mummificato l'anima. Il dolore e la disperazione ci spronano. L'ardente desiderio, ben longing, di partecipare alla trascendenza, all'armonia, allo splendore e alla bellezza della vita continua ad attirarci. Apre i nostri occhi al cielo e, come sempre, alla terra, l'amata terra. Ignorando le false promesse di un futuro migliore, le donne ribelli vogliono trovare e creare un vero futuro, Guardare nel pozzo degli orrori creato dall'uomo può costringerci a vincere i condizionamenti mortali che soffocano la nostra intelligenza e la nostra anima. E ancora, gli uomini del patriarcato hanno fatto tutto quanto era in loro potere per evitare che le donne rimembrassero. Lo stanno facendo anche oggi, emarginando e distruggendo i centri di studio delle donne, facendo sparire i libri femministi, rendendoli inaccessibili, mettendoli fuori stampa, tenendoli lontani dalle librerie, facendo fallire le librerie delle donne. Cercano di uccidere la nostra memoria profonda. La macchina patriarcale continua a lavorare con grande impegno per ricoprire il nostro passato. Sappiamo che ciò che sembrano essere le nostre nuove visioni sono in verità esplosioni di conoscenza del profondo passato. Possiamo contare sulla nostra conoscenza arcaica per andare oltre. Le donne, portatrici di memoria, sono qui, ora, con la responsabilità di far saltare le barriere che hanno imprigionato la nostra mente e anima e di aprire il varco per farci partecipare all'integrità elementale biofila dell'universo o quintessenza. Il femminismo radicale è una rivoluzione piena di spirito ispirante. Le intenzioni delle femministe elementali radicali sono concentrate su una sola causa, l'espansione della biofilia, che significa la brama originale per la vita, che è alla base della passione elementale, una pura brama che è la nemesi del patriarcato, lo stato necrofilo. L'assenza della parola biofilia dal dizionario è significativa. È collegata all'assenza d'amore per la vita da parte del mondo patriarcale. Quinta essenza nomina la presenza vivente unificante che è al centro della integrità e della connessione elementale dell'universo ed è la fonte del nostro potere per realizzare un vero futuro, il futuro arcaico. Le donne elementali radicali fanno parte della quinta essenza e la espandono richiamando il coraggio contagioso e oltraggioso. Di questi tempi è tragicamente necessario che le donne rimembrino tale coraggio. Una terribile guerra sta per essere scatenata contro le donne e la natura tutta, specialmente contro la nostra anima. E le femministe radicali elementali continuano ad affrontare il disprezzo e lo sdegno di tutto il mondo perché parlano, di speak e agiscono. Quando una donna diventa più radicale, riscopre la realtà elementale, sbarazzandosi dei pensieri e dei sentimenti condizionati e inculcati dal patriarcato. La donna fa ritorno alle esperienze e alle domande dell'infanzia e ascolta i suggerimenti della memoria ancestrale. Eravamo tutte filosofe all'età di 5 anni. Chiedevamo sempre perché. Questo stato della mente può essere definito brama irrefrenabile, che significa desiderio irrefrenabile per l'avventura e la conoscenza elementale. Che cosa è accaduto alla nostra brama irrefrenabile? Le nostre visioni, sogni, domande bizzarre sono state bloccate dalla società fallocratica e dalle sue istituzioni. Quando entriamo in contatto con la nostra profonda e appassionata intellettualità, diveniamo intollerabilmente minacciose per il patriarcato e ci avviciniamo sempre più all'altro mondo, il nostro vero mondo. Mandiamo un brano musicale, che dite? Mandiamo un piccolo brano musicale, esatto. Questo era quintessenza di Mary Daly, lo ricordiamo. Parleremo dell'altro esatto, pezzo. Dell'altro libro che a noi molto caro. Io avevo pensato di mettere Sweet Baby. Che okay. Bello. Di Erika Bado. Okay. Bellissimo. Bene. Ciao ciao. Ok. See the love in you, but love I do. Poi Rosina, che è un'intenditrice di musica, mi ha corretto, perché infatti questa canzone è cantata in due da Erika Badu, Macy Gray. Ok. Bene, e adesso allora andiamo. Devi muovere qua, se non si sente. Allora, non si sente. Devi muovere, Dina, qua. Il coso, non si sente il microfono, devi stare attenta. Non... Vai. Okay, ok, ora vai. Si sente. Sì. Allora, adesso si sente, sì, sempre? Sì. Perfetto. Allora, noi abbiamo scelto di mettere a confronto questi due libri. Ovviamente uno di fantascienza e uno è di politica. Ma guarda che caso, Mary Daly ha scelto di parlare di politica ragionando di una visione, quindi di utopia. E che cos'è un libro di fantascienza se non una visione utopica di un futuro o comunque di un mondo possibile, diverso? Abbiamo già fatto in un'altra occasione una trasmissione proprio sulla fantascienza delle donne che hanno una visione del mondo possibile che non è mai distruttivo normalmente e che comunque è molto vicino alla natura, alla naturalità. Questo libro, La difesa di Shora, ha questa particolarità di una visione di un mondo di donne, popolato solo da donne, in accordo con l'acqua che è vita, e con una capacità di vivere armonicamente in sintonia tra di loro e la natura, e soprattutto di essere biofile, così come dice Mary Daly in quintessenza, cioè di avere la capacità riparatrice verso la vita. E questo è un elemento estremamente significativo. Quindi noi vi leggeremo tre piccoli passaggi che ve la diranno lunga su questo libro, e poi vi invitiamo a leggerlo, a cercarlo strenuamente, perché ovviamente, come diceva prima Mary Daly in un passaggio che abbiamo letto, il patriarcato, tutto ciò che è significativo per le donne, tende a farlo scomparire, e questo è un libro non più ristampato e quindi tra gli scomparsi. Allora, nel romanzo della Slonczewska, Shora e Valedon sono due pianeti gemelli sui quali si sono sviluppate culture assai dissimili. Immediato è il richiamo alla dialettica tra i mondi di Urras e Annares della Legin. Ma è soprattutto Shora che si offre all'attenzione del lettore, della lettrice direi. Si tratta infatti di un pianeta ricoperto interamente da un vasto oceano, dove la migrazione periodica di gigantesche creature ristabilisce l'equilibrio ecologico. Popolato da una razza di sole donne, le Sharer, le Spartienti, che si riproducono per partenogenesi, e qui io dico e vai! La loro singolare cultura si fonda su concetti chiavi, quali comunione, armonia, simbiosi, ma riferiti non solo all'ambito delle relazioni sociali o delle manifestazioni rituali, bensì verso l'ambiente naturale che li circonda. È la consapevolezza di appartenere ad un unico gigantesco organismo, ad una totalità biologica in cui ogni elemento gioca un ruolo delicato ed essenziale. Il popolo di Shora, privo peraltro di qualsiasi propensione tecnologica, possiede un grande segreto, quello di plasmare la vita, ovvero una conoscenza avanzata nel campo delle scienze biologiche e della manipolazione genetica. La biofilia, come ha definita Mary Daly, no? facoltà che appare come un'estensione naturale di quel profondo legame con l'impulso vitale e quindi con le sue varie fasi di creazione, evoluzione, risanamento. Il mondo di Valedon, per converso, è portatore di una cultura guerriera e mercantilistica. Vi dice qualcosa anche questo del mercato? E il conflitto si delinea chiaramente nel momento in cui Valedon intraprende la dominazione coloniale o il tentativo di dominazione coloniale di Shora. Ma la vera spinta aggressiva è soprattutto nell'azione di ciò che rimane di un vasto impero interstellare, i cui artefici sono stati spazzati via dalla loro stessa follia tecnologica. Bene, questa era una parte dell'introduzione alla difesa di Shora. Adesso vi leggeremo un piccolo brano in cui Merven, che è una delle protagoniste, parla con Spinel. Spinel è un maschio anomalo valano, quindi che viene da Valedon, dal mondo opposto, dalla luna di pietra, e che lei porta con sé sulla luna oceano. E qui loro parlano e si capisce quale sia, che tipo di linguaggio utilizzino le spartienti sul loro pianeta, che è sì un sistema di comunicazione, ma è anche una spia dell'insieme di valori straordinari che questo popolo ha messo in atto, ha costruito nei millenni in cui appunto si è sviluppato. Non a caso Merven è una tessilemma, cioè una che tesse le parole, una che tesse il linguaggio. E stanno parlando di Uriel. Uriel è un evocatore di spiriti sul suo pianeta ed è quindi una specie di contatto, di tramite fra il protettore, l'alto protettore di Valedon e la popolazione. Su Shora invece ognuna è protettrice di se stessa e protettrice della vita, del pianeta. Merven era seduta sul ponte a gambe incrociate, le braccia immobili, salvo per un dito che ondeggiava un po'. Sorpreso, Spinel si riscosse per riordinare i propri pensieri. Una volta aveva fatto quella stessa domanda a Uriel senza ottenere nessuna risposta soddisfacente. Merven gli aveva chiesto se Uriel poteva raggiungere il suo spirito in un istante, perfino attraverso gli anni luce, lo spirito del protettore. «È la sua fede», borbottò infine, «e guardò altrove», disse Spinel. «Allora deve essere un uomo dagli immensi poteri», disse Merven. «L'alto protettore ha il potere e lui non sa che farsene della fede», osservò Spinel con impertinenza. «Il protettore usa la radio e le navi stellari», si alzò in piedi di scatto e roteò un braccio descrivendo un arco per mimare la traiettoria di una nave stellare, «e regna su chiunque a Valedon». «Allora tutti regnano su di lui», disse Merven. Spinel si fermò e abbassò gli occhi su di lei, fissandola. «Che cosa?» «Ad ogni forza corrisponde una forza uguale e opposta», dichiarò Merven. «Perciò chi mai governa senza essere governato?» Rimasto a bocca aperta, Spinel si tirò un labbro. Sapeva poco di forze, salvo quelle che tenevano insieme i cristalli e che suo padre gli aveva inculcato nel corso degli anni. «Devi imparare di più la nostra lingua. Nel linguaggio delle spartienti le parole si spiegherebbero da sole. Ma io quella riesco a parlarla?» E Spinel ripeté alcune delle parole che aveva imparato ascoltando. Parole spartienti per dire acqua e cielo, oltre alla luce vegetale e alla cliccomosca accovacciata sulla sua testa che emetteva quei perversi stridii. Merven lo aiutava, mostrandosi sempre paziente tutte le volte che lui sbagliava impaperandosi con la pronuncia, ma Usha sogghignava, scossa da una silenziosa risata. Spinel prese ad infastidirsi sempre più e quando Merven cominciò con i verbi uscì dai gangheri. «Cosa diavolo è lo spartir parola? La parola parlare significa anche ascoltare e se ti dicessi ascoltami tu potresti invece metterti a parlare?» «A che serve l'uno senza l'altro?» disse Merven. «Mi ci è voluto molto tempo per capire questa distinzione nel linguaggio valano». Spinel ripensò alla lista delle forme spartienti. «Imparar spartire», «lavorar spartire», «amor spartire». «Dire anche colpir spartire? Se colpisco una roccia con uno scalpello, la roccia colpisce me? Direi di sì. Non lo senti nel tuo braccio?» Spinel corrugò la fronte e cercò un esempio migliore. Era talmente ovvio che spiegarlo era impossibile. «Ci sono. Se Beryl partorisce un bambino, il bambino partorisce Beryl? È ridicolo. Una madre nasce quando giunge il suo bambino», disse Merven. «O se nuoto nel mare, il mare nuota in me? Non è così?» «Niente da fare», pensò Spinel. «Non può essere così matta. Per favore, tu conosci la differenza, vero?» «Certo, ma ha importanza?» e ancora una volta sulla vita, sul potere e sulla capacità di stare all'interno delle cose, e in armonia appunto. Ancora un dialogo, questa volta è con Listra e Merven. Cioè Listra ha fatto delle cose, cioè segue Spinel e aiuta Spinel, anche Listra è una spartiente. E poi insomma ci sono degli accadimenti successivamente sull'Istra, proprio sull'Istra, ma che non vi posso anticipare. Però sentite il dialogo, anche perché c'è stato un problema tra le spartienti e la frontiera della Luna Oceano e del loro non hanno mercato all'interno, però prendono delle cose dall'esterno e fanno, hanno una forma di baratto. E quindi qui dice: anche i mercanti sono umani, andrebbero benissimo se diventassero autobattezzati, dice Merven in questo caso. Cos'è un autobattezzato? Vieni, te lo farò vedere. Merven si tirò su un ramo, Spinel la seguì. Osservò le sue mammelle che ondeggiavano mentre si fermava. Merven gli indicò l'acqua. Adesso, cosa vedi là? Spinel guardò. Il mare, nient'altro. Guarda meglio. Vedo dei pesci, moltissimi pesci piccoli e torri di corallo. Sulla superficie chiazze di luce fluttuavano e scorrevano via veloci. E vedo me stesso riflesso nell'acqua, aggiunse con voce impertinente. Bene, e cos'altro? Che cos'altro c'è? Esclamò Spinel. Io non sono bravo con gli indovinelli, non so niente. Quando andavo a scuola, tutto quello che facevo era sognare i mosaici sulle pareti. Non imparerò mai ad essere un giudice. Perché non mi rimandi a casa? E Merven. Una creatura inferiore vede nell'acqua il suo rivale e balza dentro per combatterlo. Una creatura umana vede se stessa e sa che il mare la battezza. Ma un'autobattezzata vede ogni umano che c'è stato, che c'è mai stato o che ci sarà, ed ogni forma di vita che c'è. Battezzando se stessa diventa una protettrice di Shora. Un protettore? Vuoi dire tutti? Rimase colpito dalla bizzarra logica della cosa. Senza nessun nobile o plebeo, tutti diventavano alto protettore. Avete finito i pezzi di Shora? Sì, purtroppo sì, sono purtroppo sì. Allora mandiamo un'altra canzone. Allora, siccome mi avete accusato di essere troppo vetero con la musica, ce ne metti una sgarzula? No, ne metto una un po' più recente. Vabbè, con sommo dispiacere. Punti ponenti, punti P. Vediamo se la riconoscete. Because of you, the tears dead in my eyes, the freeze until I'm blind, the ice a gift from you. No, non ci credo che non la conosci così, no? Io sono veramente molto vetero e non la conosco. È Skin. Ah, Skin di Scancanensis, no. Skin da sola. Oh, approfitto di questa musica molto bella per ricordarvi che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda a partire dalle ore 17 tutti i martedì su Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Potete ascoltarci collegandovi al nostro sito www.clrbp.it e cliccando sull'icona in diretta, oppure sul sito di Radio Onda Rossa, che ricordiamo è www.ondarossa.info. Avete diversi modi per entrare in contatto con noi: potete telefonare al numero di Radio Onda Rossa, lo 06 49 17 50, fino alla fine della nostra trasmissione, oppure potete scriverci una mail al nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it, o telefonarci il giovedì sera al Centro Femminista Separatista a questo numero, che è lo 06 68 6401. Come sempre, il mezzo più immediato che avete per farci sentire che ci siete è quello dei trillini, che gradiamo sempre. Basta fare il numero di Radio Onda Rossa, quindi lo 06 49 17 50, lasciar squillare una volta e riagganciare. Non costa nulla, ma a noi regala tanto, quindi fatevi sentire, perché noi siamo qui. Ed eccoci allora agli appuntamenti prontamente introdotti dalla nostra sigla. E il primo appuntamento che vogliamo ricordarvi è quello per sabato 30 gennaio alle 11 a Roma, presso la Casa Internazionale delle Donne a via San Francesco di Sales 1B al Buon Pastore. E il 30 di gennaio, appunto, ci sarà la seconda assemblea nazionale preparatoria delle 5 giornate lesbiche, che si svolgeranno dal 2 al 6 giugno di quest'anno. Si tratta di un appuntamento molto importante, in cui si parlerà delle proposte fino a qui arrivate e in cui si raccoglieranno ulteriori indicazioni per mettere a punto il progetto. Sabato 30 gennaio e anche la domenica successiva, il 31, sarà possibile approfondire i singoli temi in piccoli gruppi. Vi ricordiamo ovviamente l'indirizzo del forum delle 5 giornate lesbiche, che è a vostra disposizione per discutere le idee e le proposte direttamente con le referenti dei diversi filoni dei quali si occuperà l'assemblea. Allora, il sito è http://5gl.forumfree.it/. Le 5 giornate lesbiche, e anche su Facebook, per voi che siete così versate nella tecnologia, mentre noi ancora andiamo con il piccione viaggiatore, e quindi potete chiedere l'amicizia di Facebook per scambiare al volo messaggi e informazioni su questo importante appuntamento. Quindi ve lo ricordo: sabato 30 gennaio e domenica 31 alle 11 presso la Casa Internazionale delle Donne. Comunque, scusa, volevo fare soltanto una piccola precisazione, che siccome non avevamo detto di prendere carta e penna all'indirizzo, lo ripetiamo. Lo ripeti, ma comunque io credo che venga fuori, anche se si chiede. Sì, tranquillamente. 5 giornate lesbiche viene fuori. 5 giornate lesbiche, comunque io lo ripeto: http://5gl.forumfree.it/. Comunque 5 giornate lesbiche verrà fuori, viene tutto fuori quanto. Lo stesso. Vi aspettiamo allora sabato alla Casa Internazionale. L'altra notizia, sempre a proposito delle 5 giornate lesbiche, è che dal 24 gennaio, cioè dalla scorsa domenica, è partita a Roma una rassegna di film lesbici tutti da vedere. Noi ci siamo state. Non si sente. Prendi questo. Prendi quello, vai. Allora, scusate, abbiamo un problema col microfono. Allora, altra buona notizia è questa, dicevamo, che dal 24 gennaio, cioè da domenica scorsa, è partita una rassegna di film lesbici da vedere, rivedere e da commentare insieme, se vogliamo. Nel senso, no, il dibattito, ma da commentare fuori, dopo, quando si chiacchiera. È un'occasione per sostenere le 5 giornate lesbiche, ma anche per trascorrere qualche piacevole domenica. Per ogni appuntamento, due film intervallati da un aperitivo, a un costo veramente eccezionale, e cioè le due proiezioni costano 6 euro, quindi veramente niente. E se vi va, fra 15 giorni ci sarà il prossimo appuntamento domenicale, quindi ora il 30 e il 31 c'è l'assemblea, quello successivo, e di lì a scadenza ogni 15 giorni. La cosa carina è che potete andare a vedere l'elenco completo delle date dei film, che è scaricabile dal sito, che è www.5giornatelesbiche.org. L'ingresso è ovviamente riservato alle solo donne, e quindi vi invitiamo ad arrivare. È anche è un modo per stare insieme ed è un modo per finanziare questo importante appuntamento che ci sarà in giugno. E adesso passo, leggo un'altra notiziola io e poi passo il microfono alla mia vicina Rosina. Allora, è sempre allacciata alle 5 giornate lesbiche, e questa è l'ultima notizia riguardante le 5 giornate. Alcune amiche a Milano stanno organizzando una cena di autofinanziamento con ingredienti quasi tutti biologici, che si terrà sabato 6 febbraio. Per informazioni, daniela@danieladanna.it. E mi preoccupa un po' quei quasi tutti biologici, perché quelli restanti vorrei sapere che natura hanno. Vabbè, comunque rimaniamo sempre in tema cinematografico, e siamo lieti di annunciare la nascita di un nuovo sito, scherzi a parte, un sito che si chiama www.letstrailer.it. Si tratta di un sito molto interessante, io me lo sono andata a guardare, perché non sono proprio così vetero, ogni tanto navigo anch'io, seppure a vista, nel grande mondo del web. Si tratta appunto di un film che si occupa di un sito che si occupa di cinema, presenta una serie di frammenti di visioni lesbiche, quindi dei trailer di film, documentari, cortometraggi, serie TV, serie web, eccetera eccetera, e sono sguardi sul desiderio, così dicono le curatrici di questo sito, la passione e l'amore tra donne, un immaginario romantico ed erotico autorappresentato, cui corrispondono al cinema e alla TV non italiana, ci tengono a sottolineare, modelli di riferimento vincenti, una crescente attribuzione di dignità sociale e riconoscimento di diritti civili. Se infatti nelle prime produzioni filmiche le lesbiche inevitabilmente facevano una brutta fine, morte o follia, da qualche anno riescono anche a vivere felici e contente, e questa è una buona notizia. Cinema e TV sono diventate un luogo per la definizione di un sé che prende parola per differenza, inventando storie lesbiche e addirittura a lieto fine costruendo mondi di donne vivibili. Les Trailer cerca di tenere traccia di queste soggettività femminili desideranti, mostrando appunto trailer, pubblicando sinossi, mettendo in evidenza registe, attrici e sceneggiatrici. Quindi ci sono molte possibilità di ricerca, potete cercare il titolo. È fatto molto bene, per il film, per titolo, per genere, per categoria, per anno, paese di produzione, via dicendo. Se masticate un po' di inglese potete anche seguire alcune delle cose in lingua, e quindi andate a vedervelo, www.letstrailer.it, molto interessante. L'ultima notizia invece riguarderà la manifestazione nazionale di Novat su autodeterminazione, laicità, antifascismo, razzismo e liberazione, di cui però vi parlerà Lucilla. Allora, dopo lo stacchetto musicale, eccomi qua a voi. A Roma, sabato 13 febbraio 2010, invece di festeggiare le Sante Valentine del Cavolo, andiamo tutte quante alla manifestazione Novat, autodeterminazione, laicità, antifascismo, antirazzismo, liberazione. Dalle ore 14 il concentramento sarà in piazza Bocca della Verità e la manifestazione terminerà a piazza Navona. Allora, se volete andarvi a leggere il documento di invito alla manifestazione, il documento politico, e anche per dare le adesioni, il sito è quello di Facciamo Breccia, che è www.facciamobreccia.org, mentre per le adesioni è mailto adesioni@facciamobreccia.org. Ora noi vi leggiamo rapidamente, siamo in chiusura, il breve comunicato di adesione che noi abbiamo fatto. Questo documento politico ci sono piaciuti sempre, tutti gli anni. Questo è il quinto anno di Novat, della manifestazione più laicità e meno Vaticano, quindi Novat, ma quest'anno abbiamo trovato questo documento ancora più bello, perché introduce un concetto per noi che noi avevamo già in testa e che loro hanno saputo sviluppare così chiaramente nel documento d'invito. Noi lo riprendiamo e questo è il nostro breve comunicato. La nostra storia e la nostra pratica di lesbiche ci ha insegnato che il conflitto è un'energia positiva, dinamica di trasformazione, ma in questa fase storica viene criminalizzato, svuotato così del suo significato di confronto e trasformazione. Si assiste alla repressione di qualsiasi soggettività non assimilabile ad un ordine storico, ad un ordine statico, scusate, e liberticida. Osserviamo il declino della soggettività autodeterminata delle donne, che sono spinte sempre di più alla rinuncia del governo di se stesse, fuori drammaticamente dal mondo del lavoro, sempre più condizionate al ruolo di mogli, madri e fattrici. In questo disegno si alleano distintamente la destra e la Chiesa, mentre la sinistra si appiattisce sinistramente. Ed è sul termine di assimilazione che ci vogliamo soffermare. L'assimilazione di piccole frange di lesbiche, gay, trans e migranti è un infingimento che nasconde l'intento di frammentare i movimenti e marginalizzare tutti quelli e tutte quelle che non si allineano. Come lesbiche non possiamo che ribadire la necessità all'autodeterminazione, l'urgenza all'antifascismo, l'imprescindibilità dell'antirazzismo e l'invocazione, stavolta sì, dell'anticattolicesimo per la libertà di tutte e tutti. E noi ribadiamo anticattolicesimo perché siamo in uno stato confessionale e cattolico e quindi è contro questo che dobbiamo essere. Scendiamo in piazza il 13 febbraio 2010, sempre in più no VAT e che la Dea ci liberi dall'eterosessualità obbligatoria. Le CLR vi aspettano. Ok, io penso che adesso avendo parlato così tanto, mandiamo senza ulteriori interruzioni di parlate sopra una canzone che io vi dedico perché siete state bravissime, avete fatto questa trasmissione eccezionale e quindi sì, questa canzone è tutta per voi, ok? Grazie. Chiaramente anche questo è vetero, eh? Però è bellissima.